troppo contro il tuo sguardo. Non me lo dire mai che non è logico. Mi sono perso ormai. E cos'è logico? Lo chiamo amore, poi torno a nascondermi. E le mie parole restano chiuse in me. Tu che cammini al mio fianco e non saprai. Mio fianco di vorrei e lascio tutto come si trova. Andiamo adesso e lascio tutto come si trova. Andiamo adesso. Oh.